oggi prigione tu, prigioniera io, Roma antica città. Ora vecchia realtà, non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. Ma sulla città tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento le sale da te, paese che non ha più campanelli. Concerti di viola e mondanità, profumo tuo di vacanze romane. Profumo tuo.